quelle oscillazioni, ma che neanche ci immaginiamo, nei ponti ci sono i giunti di dilatazione ogni 25 metri, se no si troncherebbe in due, anche se tu lo fai in acciaio, bellissimo tutto qua, devi fare i giunti di dilatazione ogni 25 metri, perché ci sono le dilatazioni dei materiali. Poi parliamo di sollecitazioni, questa nella tenne è ancora peggio, perché c'è sollecitazioni orizzontali e verticali. Io ho detto una cosa, che la pressa ha fatto la sci di Attunini in ciechi. Ciechi, Natalino. Sì. Io me ne passo in quei rettilà che devo fare cosa qua. Io già mi misuro tutto bene, adesso prima di piazzarla e la faccio come deve essere fatta, perché Gianfranco ce l'ha tanti anni e non si è troncata e ventano i biglia perché è in alto Gianfranco. Ma non prende mai il metto che prendo io, che sono di fronte al mare. Vabbè, Gianfranco c'ha la collinetta pure un po', lo protegge, certi venti magari già entrano, però lui c'ha la collinetta di Monte Oro, ma già ne verrà in pieno. Allora a me non va bene quell'antenna. A te non va bene? Tu dove sei? Attaccato al mare. Sì, già lo so, dipende tutto da come le piazzi le antenne. Se ti dichiarano 160 km/h, una volta che lo certificano, loro le fanno le prove, per cui le ottiene. Però il discorso c'è da dire, possono anche essere difettosi i materiali, è una prima volta che si spezza qualche materiale, qualche tubo, qualunque cosa, difetti costruttivi può capitare, però più che altro il problema è già che non è stata installata a regola d'arte e per cui si è troncata. Secondo me la Game Master a livello di resistenza fronte e vento è superiore alla Mantova, alla grande, perché è una superficie inferiore, una superficie molto inferiore alla Mantova. La base del vento, lo specchio diciamo che copre il vento, è superiore sulla Mantova di gran lunga, per cui è molto più sollecitata la Mantova rispetto a una Game Master. Ha una superficie fronte e vento limitata, per cui teoricamente ci credo che arrivi a 160 km/h, però montata in condizioni ideali. Ciao Franco, ben sentito. Ciao, vabbè. Ciao anche a Gianni e a Natalino. Sì, ma è tutto sano come piazzarla. Devi sempre seguire le istruzioni e le misure di installazione. Devi seguire. Purtroppo non è come la Mantova quella, che la Mantova anche se la metti qualche centimetro o giù o più in alto, vabbè, quelli c'hanno, come la mia, c'ha tutto già pronto, fine corsa, c'ha il fine corsa e va la piazza molto meglio. Però dove c'è vento così non è tanto facile, perché l'ho sentito già si è rotta quella di Gianni, poi si era rotta anche quella di Cosio, di Porto Torres, di ma adesso non mi ricordo il nome, di Sandro, e poi non ho sentito altro. Avanti Gianni. Gianni, non ti capisco. Ho detto che qualsiasi antenna mia, c'è quella macchinetta che si discuta di brocco. Non direi questo, ecco, già, non si comprende nulla. Ma tanto cosa? No, non ti capisco. La manovrazione non è buona. Guarda adesso. Prova. Guarda, 1, 2, 3. Stavo parlando solo adesso, cazzo, mi capisco. Cappa. Adesso sì. Poco fa, non ti capivo. Ho fatto la battuta, ho detto che anche se qualsiasi antenna mi distrugge quella macchinetta rossa che ti rompe le scatole e ti disturba. Vai in macchia il motore. Se avete tempo salite all'imbaro, dove ci sono anche le radio e le televisioni private importanti, e poi ci sono le televisioni, parliamo, regionali e provinciali, e ne vedi un po' che tra i ciccaduti in terra, di lì c'è da dire ci sono venti da paura, situazioni di caldo, di freddo, eccetera eccetera, e se sono montate male le antenne nei bar, neanche con le broadcasting grosse, con tralicci importanti, tutto dipende da come si montano le antenne. Vabbè, quest'anno quando è passato un ciclone qua, è passato, mio cognato mi ha telefonato, io non c'ero, dice l'antenna mi è caduta, la tua, ne sta cadendo, è tutta girata, ha detto ma te lasciala cadere, non ti preoccupare, e ma c'è del cane sopra a me, riesce a far male, e lasciala stare, allontanati. Io ho visto certi giorni la Vantova che si gira, non dico a 90 gradi, ma almeno a 30-40 gradi si piega, eppure scaricava bene, vedi anche il palo oscillare. Mentre ho visto Mantova con pali più bassi del mio, truncate in due, te ne faccio vedere quanto ne vuoi a Sassari, truncate in due, perché faceva non leva sul piantone, pum, faceva effetto frusta e si truncava in due. Ma a me non me ne sei mai rotta una, pure il vento qua ne fa. Naturalmente i tiranti sono lenti, non sono tirati a morte, sono lenti. A volte si muove il palo insieme all'antenna, per un po', da una parte e dall'altra. Ho tre tiranti e non è mai parata, è sempre dritta. E avanti che vuole entrare su. Non è a voi di Robe. Anche stasera c'era un altro, mandano la portantina e poi non entrano. Avanti, se vuoi entrare, siamo qua su Canale 10 in compagnia mia, Roberto, Franco e Gianni doppio Ru. Natalino mi sembra che è andato a nanna perché era stanco. Vai Gianni. Gianni, sistema il microfono, è tutto a inneschi, non si comprende nulla. Comunque ti saluto, dai, ci sentiamo alle prossime. Vai Franco. Ehi, cappa, ciao Gianni, buon tutto, dai, ce l'ascoltiamo. Ciao, ciao. Ehi, cappa, capito Robert? Sì, io già lo so, stavamo discutendo di antenne, soprattutto di valori, di guadagni e cose che sono fantasiosi, troppo effetti fesserie scrivono, soprattutto poi come montaggi di antenne, bisogna stare molto ma molto attenti. A me me ne era caduta una per un tirante, mi sono fidato perché dovevano essere tutti regolati in modo distribuito il carico. Su un palo di 13 metri c'erano due collineari montate per FM, stiamo parlando di altre cose. E a mollato una ne farà tutta in tre, si è troncato in due il palo, ed era un palo di un certo livello, non una cagata, ha mollato tu un tirante, si è piegata in due, ha suonato l'antenna. Capita Robert, a me una Mantova 1, allora c'erano le Mantova vendendo, una Mantova 1 è sceso un fulmine e me l'ha tutta fulminata, me l'ha. Eppure avevo i tiranti, erano tutti di corda, il coso, la molla che aveva, quella lì me l'ha fatta dritta me l'ha fatta, me l'ha rovinata proprio, ce l'ho buttata quell'antenna. Cioè ti è entrato il fulmine sulla Mantova, scaricato? Sì, sulla Mantova, e meno male che c'avevo la massa a terra. No, non c'è, probabilmente era vicino, fra, se ti scarica sull'antenna, a parte che è cortocircuitata, non so come abbia fatto entrare, ma è entrato vicino, perché se ti entra un fulmine dentro l'antenna, diciamo, si riesce a attraversare l'antenna, a te ti disintegra già la casa, non ci credi? No, aspetta, ha scaricato a terra ha scaricato, dall'antenna ha scaricato a terra, dove gli ha agganciato la massa a terra, non è cortocircuitata la Mantova 1. La Mantova turbo è controcircuitata. No, sono tutte cortocircuitate al 100%, per leggi matematiche e fisiche, sono tutte cortocircuitate le antenne. Ma io sapevo di no, che non era così. Va bene, sono entrato più che altro per salutarvi, che mi è venuta mia moglie e adesso vado a mangiare. Ci sentiamo, ciao, buonanotte, buon tutto e buona cena quando la fai. Ehi, grazie, buona cena anche a te, rimango un pochettino, adesso poi mi sposto da qualche altra parte, ancora l'appetito non mi è venuto, dai, rimango qualche minutino qua, ti saluto, dai, ci sentiamo alle prossime, Franco, dai, adesso vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti di nuovo, Franco. Ok, dai, ciao, ciao. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare, oggi è tutto povero. Hola, canale 10, è rimasto qualcuno? Sì, canale di Adela. Ciao Antonio, aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando. Chi è che chiama Roberto? Sì che ti sento mico, un po' strano di radio e un po' più basso di segnale. Come mai? Cos'hai combinato? È strano che non stai spingendo, ma è il processore inserito. Prova a inserire il processore e poi regola un po' meglio il Mickey Game. Boh, ti sento strano, sembri impastata la voce. Prova a parlare un po'. No, mico, stai andando malissimo, sembri saturo. Eri un po' meglio prima, non so cosa hai fatto. Ma hai messo il processore o l'hai tolto? Ma scusa un attimino, che microfono stai utilizzando? Adesso ti sei è abbassata a 7, rinnovo e poco fa il segnale, ma se andando male, non mi piace la modulazione. Ma stai toccando la potenza, non capisco quello che dici. Ma l'alimentatore riesce a gestire la situazione? No, no, non mi piace, mi dispiace dirtelo, non sei tu. Ieri stavo uscendo perfettamente, eri quasi 9-10, adesso sei meno di 9, però la voce è tutta come che ti metti un fazzoletto in bocca, non si capisce niente. Ma è un microfono da palmo o un microfono da tavolo, da Kenwood? Prova a cambiare l'impedenza, se un MC60 prova a cambiare l'impedenza, forse qualcosa cambia. No, no, no, guarda, il segnale è salito quasi 9-10, però la radio 0, cioè quasi non è comprensibile, pur essendo chiara, nel senso non ti porti quello che mi ha preso, però la radio è quasi incomprensibile, cioè è come che ti metti la mano sopra la bocca e parli, non si capisce quello che dici. No, però non capisco quello che dici, sembra che fai così. Ma una domanda, il Mickey Gain a quanto l'hai portato? Prova a sollevarlo e poi prova a abbassarlo, mi fai due passaggi, dici questa è la posizione per dire metà e questa è di meno. Prova a parlare adesso, ma non è che stai toccando la potenza, ti sei abbassato di segnale, amico. Adesso va un po' meglio, fai un passaggio più lungo e c'è il processore inserito. Allora fammi un passaggio, c'è un tratto dove c'è scritto proc, schiacci e poi mi dici passaggio inserito o disinserito. Mettimelo inserito un attimo. Allora, processore inserito va bene, la radio adesso è migliore, prova a sollevare un po' la potenza. Adesso sei tu, adesso la modulazione è chiara e pulita. Radio 5, 9 più 5, tendente a 9-10 il segnale. Assolutamente, è meglio. Naturalmente, tieni presente, normalmente nelle radio quando disinserisci il processore spinge di meno, però la voce normalmente è più chiara, meno penetrante, più naturale. Però nel caso tuo invece è il contrario, non capisco per quale motivo. Non lo so, qua siamo un po' qua, qui siamo solo 25 con la chiave. E Mickey Gain a quanto ce l'hai? Siamo a 4 tacche, non viene a 4 tacche. Prova a sollevare solo per curiosità se deteriori la voce. Ok, lo faccio un po', vediamo un po' come va. 1, 2, 3, 4, portalo su, portalo verso metà. Verso 5, allora abbassalo un peruzzino che sta iniziando a strappare, abbassalo di un attacco. Sì, adesso abbassato di un attacco, allora la parte mia va benissimo, lo puoi tenere così, è abbastanza forte la radio, non stai distruggendo, se non alzi il tono della voce va più che bene. Radio 5 e segnale quasi 9-10. Ma puoi alzare ancora di più, non sei al massimo con quella radio. No, lascia stare così, va benissimo, io ti ascolto perfettamente. Avrei voluto far sentire qualcuno di quelli più lontano, tipo Muros, quelli che avevano difficoltà. Se vuoi settarla così, la radio da parte mia va benissimo, ti ascolto perfetto. Niente da eccepire, è abbastanza comprensibile, nel senso come emissione, non hai grosse disturbi, nel senso di tonalità, sono abbastanza lineari come modulazione e non posso dire niente. Ottima, forse la migliore che ti ho sentito sia come segnale che come potenza di radio. A parte il segnale, se me lo vuoi dire Mario, se non è veritiero, dimmi la radio mia com'è in ricezione. La ricezione sta andando alla grande, in ricezione come mi ricevi? È pulita la radio o mi tiro presso qualcosa? Controlla, è attenuatore inserito, verifica se c'è l'attenuatore, magari per distrazione. Domani cosa mi dà? Un po' di discorso. Allora, con 300 microvolt di ingresso dovresti già avere un S9 tu con quella radio. Se c'è possibilità di regolare lo switcher, sempre che non sia danneggiato, per dire difettoso, dovresti avere 300 microvolt in ingresso e 9 di segnale. Questi sono i parametri standard, diciamo. Controlla poi se ci sono delle armoniche, delle spurie, se c'hai l'analizzatore di spettro le puoi verificare, ce l'hai tu di lì dalle tue parti. Sì, sì, no, adesso già si trova qualcosa di vecchia generazione, magari non di ultima cosa, con il monitor a tubo cattusico, magari adesso li stanno dando anche con, diciamo, sotto i 1000 euro si trova qualcosa, ma visto che tu hai trovato delle cose carine a un buon prezzo, magari sotto banco si riesce a trovare. Poi con l'oscilloscopio si può vedere la forma d'onda, come sta andando, visto che ce l'hai. Sì, bene, poi verifichi l'auditamento di frequenza, se sei perfettamente centrato, perché adesso io ti sto ascoltando in AM, è abbastanza larga e ti ascolto perfettamente, ma in banda laterale bisognerebbe verificare che lì col tempo molte volte vanno un po' fuori stabilità. Okay. Antonella, ci sei ancora? Sì, a voglia che ci sono. Cioè, che oggi sta uscendo bene, cosa hai combinato? Non toccare niente? Ho aperto il baracchino, sto usando un ecco. Che era ora, dopo tante peripezie, finalmente, adesso tu per... Perfetto, domani te ne muoio un altro e te lo rampi. No. C'è qui il Saturneco, ha detto qua, poi c'è anche il coso, l'altro apparato, quello che va in 10 metri anche, il Daytone, capito, 55-55, quindi ho due apparecchi come si deve essere. Adesso sei perfetto, non sento né vento, né motopicchi, né molette, la radio è pulita, chiara, recoaro. Microfono cosa stai utilizzando? Il microfono Savelta. Ma Savelta c'è anche il controllo di tuning? Sì, dovrebbe essere questo. Guarda un po'. Ma hai toccato i tuning adesso? Sì. Allora, come ce l'hai, in che posizione è? Così proviamo a regolartelo un po' meglio. Così a zero, così a metà e così del tutto. Allora fammi un passaggio un po' più lungo al massimo. Così al massimo. Quindi figurati. Così sono tutti al massimo, così sono a metà e così sono a zero. Guarda un po', e poi non cambi molto. Questo è il CM40 della Savelta. Allora, in posizione massima è più naturale la voce, tienilo in posizione massima e va benissimo. Il livello, se vuoi te lo dico, se aspetti un secondino, ti dico se vai bene come livello. Sì, già va bene come livello, senz'altro. Chiedi così cosa puoi che fare. Ah, voglio, c'era anche per i porci. Quindi sto scendendo di radio come si deve, andare ogni volta a casa, tanto bene. C'è questo rumore di vento, anzi se oggi solamente questa ventola qui quando la cielo sembrava molto più caldo. Domani vi danno lo smoto, sta alimentatore, sta toccando qualche cosa, non so cosa, ma sta toccando. Devo aprire l'alimentatore e vedere cosa diamo lo charme. E così rimetto la. Dato che ci sono, rimetto la resistenza, rimetto. così di male più silenziosa. E poi quando che cosa ci offri qua dentro, qualche cosa in metallo? No, no, Antonio, è perfetta la radio, non toccare niente, è setta così, la parte mia è ottima, tutto perfetto, non sento rumore di alternata, rumori esterni, va benissimo, perfetta. Ok, vediamo se Mirko è rientrato. Come ascoltavi a Mirko, Antonio? Quando è rientrato faceva schifo, la verità, sembrava era parecchio, non stesse funzionando. Era tutto salire, saliva, scendeva il segnale, finché non si sono stabilizzati i watt, evidentemente l'avevo appena acceso. Capito? Sì, ma dopo alla fine quando hanno fatto le regolazioni ho visto che stava andando bene, era chiara la voce, non c'aveva quel cacchio di fastosità, sembrava ci avesse la mano sopra le labbra, non si capiva niente, poi il segnale saliva 7, 8, 9, e poi alla fine come ha regolato era quasi 9, 10, 9, 5 arrivava. Ma già arrivava bene, a me mi arrivava 7, quasi 8, là, una cosa del genere. Già va bene come cosa. Vediamo se è rientrato qualcuno, avanti chi c'è su 10? Eia, lui ti arriva a 17, quanto hai detto Antone? Mirko, quanto ti arriva? 7 mi arriva. E lui come ti arriva invece, Mirko, Antonello, quanto arriva a dire dalle tue parti? Una volta arrivavamo, vabbè, una volta, eravamo parati anche intorno ai 9, 9, 10, da me Claudio, vabbè che io ero sempre pompando con 600 watt prima, arrivare 4 adesso, e anche io ce l'ho di fronte in pratica, ero capocaccia da qua, vabbè che... In verità doveva molto più forte la verità, perché a volte mi ricordo che quando parlava mamma a Baracchino arrivavo a 9.20, 9.25 lì al porto, di Alghero. Ma quella era la tua zona, qui sono molto più in alto e molto più tappato, invece là ero tutto aperto per Alghero. Ma c'è da dire, Antonè, che lo Smith di cosa probabilmente è salato, perché io arrivo 9.10 di arrivo con l'altra radio e qua gli sto arrivando 5, per cui c'è qualche problema con la radio come indicatore. Ah, l'importante è anche se è 4 la radio di Antonello e 5 di pulizia, Mirko. Antonello addirittura. Mi sembra strano che avevo basso le radio. Vabbè, l'apparecchio che esegue una volta quello che sta usando Antonio Bombo, l'87, quello gli ha pompato di radio, l'avevo sollevato da LC e tutto. Questo non ho ancora aperto l'apparecchio, quindi per vedere se c'è l'LC basso o se è alto. Ma dove l'hai recuperata questa, Antonio? La radio? Questo Saturno. La stava vendendo una persona e gli ho detto portavela a me, ti do i soldi e così me lo tengo io. Scrivo su io. Quello di cosa? Di Palottero SM, che c'è il camper. No, bellissimo, bella, ti sto dicendo, tienila questa, è una bella radio, pulita, piace a me, tranquilla, non è richiesta da buon combattimento, però la radio è chiara e pulita, non ha nessun disturbo, poi conoscendo la persona che te l'ha dato sicuramente è anche in buone condizioni. No, è a posto, c'è un graffio, è perfetto. Per cui se vuoi un consiglio da amico, non tocca nulla, lasciala così, non manomettere, perché poi quelle radio quando le tocchi sono solo problemi, iniziano a darti disturbi, residui alternata, poi un canale c'è più forte, l'altro meno forte, se è originale come mi immagino, lasciala così e non toccarlo, perché è un peccato toccarla, sta uscendo benissimo, avanti Mirko. Radio originale, che è un marchio, sono da dire una cosa, a parte che la gente non l'ha capito, se tu c'hai 5 watt e non hai 10, la differenza è inesistente. Certo, se da 5 ne porti a 50 è una cosa diversa, però da 5 a 10 non cambia nulla, assolutamente niente, tu ti misuri il segnale, non cambia nulla, e la gente è convinta, li tiro fuori 5 watt in più anziché 10 ne vanno, e quindi non cambia nulla. Che è importante è sempre l'antenna, che fa la differenza è l'antenna, se c'è una bella resa l'antenna. Certo, se poi li metti un lineare da 10 gliene dai 200, a vedere se cambia la musica. Io ce l'ho lineare, ma è spento adesso. Se attacco lineare, già l'ho provato ieri, già cambia, vuoi che cambia. E c'è anche il cavolo radio, molto chiaro, sembra che non ci sia, sembra che non sono neanche attaccato, figurati. Sì, ma se tu prendi una radio e gli tiri il collo, quella è nata per dare 10 watt, teoricamente ne puoi arrivare a 15. E beh, alla fine li stai saturando con i transistor, già lo sai meglio di me, Antonio, non te lo devo dire. Stai mettendo in crisi i transistor, crei distorsioni, attacchi un lineare e amplifichi tutte le distorsioni che ci sono, le armoniche, le spurie, le moltiplichi, perché ogni guadagno di dB di potenza, stai amplificando di tanti dB il segnale, sia quello pulito che le spurie e le armoniche. La radio, se stava iniziando a saturare, si amplifica ancora di più la saturazione, e alla fine è meglio tenerti in mazzo pulita una radio di pochi watt, però che sono puliti, e decidere tranquillo e pulito. È inutile avere, io tutti questi Saturn Echo, il 90% che ho sentito, Antonio tu lo saprai più di me, sono tutti manomessi e tutti una cagata, a potenza basse vanno bene, come altri appena appena sono tutto distorsione. Ho capito, vabbè, io di potenza non ho toccato niente, l'unica cosa è che volevo registrare nell'EC che gli dà più potenza di radio in uscita e basta, che esce più forte. Poi quella potenza la posso lasciare anche così, non me ne frega niente, ma vabbè, i watt che mi sta dando a lui, c'è anche l'avanzo. Sì, ma toccare la LC, stai modificando dei parametri che sono stati prestabiliti. Se vuoi alzare un po' la radio, ti metti un microfono un pochettino più alto e lo fai lo stesso, senza bisogno di modificare niente, perché tu magari sta uscendo più forte, sì, magari ti attenua gli acuti, ti attenua i bassi o i medi e ti stai deteriorando la cosa. Chi le ha progettate quelle radio? Sicuramente non è uno stupido, una persona che ha delle cognizioni di causa che l'ha fatto. Si tengono, come dici tu, molte volte un po' più bassi, però bassi però sono più lineari come modulazione, come aprire l'LC, alla fine senti dentro un citofono, dentro uno di quei megafoni, e la radio si imbruttisce. E non ti faccio nome e cognome, già lo sai anche tu, molti Saturn Echo che sentivo qua erano una gaggata mondiale. Vai Mirko. Cambi tante cose, perché soprattutto crei distorsioni, e la voce se è naturale sta uscendo bene, come sta uscendo adesso Antonello, che raramente l'ho sentito così bene. Non toccare niente, lascia così, vuoi un po' più di amplificazione, ti alzi appena appena il microfono, secondo me è anche pure troppo alto Antonello, vabbè siamo vicini, ma va benissimo così. Vuoi più potenza, ti metti la stufetta vicino e aumenti la potenza senza toccare niente, e va benissimo così. E io ho capito. Adesso vedremo, là. Vediamo un po'. L'importante è che sta bene, almeno non c'è questo di cosa, mi vuole. Ogni volta accendevo questa cosa cinese, per carità, il mal di testa mi veniva con questa pentola. Anzi, io ho già peggiorato, se lo senti, tuia, mi fa poco di casino. Ci deve essere c'è caduto qualche cosa dentro. Ecco. Che cos'è quella cosa? Sta avvento là. Non avevo metà prova che sta facendo tutta quei casini oggi. Non capisco cosa gli abbia preso. La mia capo di metatore era... E ci metto un po' di coso in CRC, a vedere. Beh signori, io adesso vado a mangiarmi qualcosa, poi se ne ho voglia entro più tardi, ma sarà difficile che sono un mercato. Comunque vi saluto a tutti e due, ciao Antonello, ciao Mirko, tutti e due ben sentiti, io vado a mangiare qualcosa e vi auguro un buon proseguo a tutti e due, ciò per rimanere in questo. Saluto anche gli eventuali amici qua su 10 in ascolto, QRT da parte mia. Ciao ciao. Ciao Robè, ci sentiamo domani, va. Dico anch'io che mi guardo un po' di televisione adesso. Ciao amico D'Alghero, saluto bene per te, ci sentiamo domani. Prima di chiudere, non toccare anche tu niente, va benissimo così, perfetto. Io ti sto ascoltando con una radio seria, un altoparlante esterno e ti ho visto anche su altri tipi di apparecchi, per cui se va bene così inutile farti dire fai quello o quell'altro, stai andando alla grande, rimane così e non toccare niente, memorizza i settaggi, poi se tu vuoi fare qualunque cosa sei libero di farlo. Da parte mia stai andando alla grande, di nuovo ciao, cuore ti. Ciao di nuovo, ciao ciao.